Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Credimi, incassare subito fino al 99% delle tue fatture senza vincoli e burocrazia si può, anche prosoluto e senza notifica. Vai subito su credimi.com. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com. Abbiamo fatto un passo indietro, ma siamo una squadra in costruzione, però è un punto guadagnato perché c'è stato un ottimo spirito. Deve crescere un po' la condizione di questi giocatori che sono importanti. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Di Lorenzo. Dentro il tocco politano, sinistro, che gol, 6-0, Matteo Politano. Risultato bugiardo, che se Zielinski non fa il 2-0 i primi 20 secondi del secondo tempo, dopo 7-8 minuti avrei messo un altro centrocampista e ci mettevamo 4-3, perché abbiamo sofferto. È vero che abbiamo creato tanto, però abbiamo anche sofferto un pochettino. Larga per Danilo, che può affondare dal fondo. Danilo, palla cross, Ronaldo, rete, gran colpo di testa di Ronaldo, va un'altra volta in cielo e batte Mirante. Io ho visto sempre Dzeko molto sereno, motivato a lavorare. Oggi ha lavorato molto per la squadra. Una settimana sotto porta, però, no? Ha sbagliato, come molti hanno sbagliato, ma penso che Dzeko sta sereno, sta motivato. Chi ha cambiato con Pirlo entre vosotros? Io penso che todavía es muy temprano, però animicamente io veo l'equipo mucho mejor, más contenta y trabajando también sonriendo, que esto es muy importante. Se pensate, se all'interno del club, di aver fatto qualche leggerezza, aver commesso qualche leggerezza? No, nessuna leggerezza. Si è verificata l'opportunità che Suarez si liberasse dal Barcellona e abbiamo fatto tutte appunto le verifiche necessarie. Abbiamo agito nella totale trasparenza e nel pieno rispetto delle regole, quindi siamo serenissimi. Riassunto così la domenica del campionato, una domenica santa dello sport, perché abbiamo visto qualunque cosa per tutti i gusti, dal mondiale di ciclismo a tutti i motori possibili, a Sinner che vince la prima Roland Garros, all'inizio del campionato di basket, eccetera eccetera eccetera. Pierluigi Pardo, Radio Twitti? Sì, guarda, Radio Twitti in maniera abbastanza generica ma assolutamente convinta su questo weekend, che secondo me conferma la previsione di questa stagione. Poi magari mi sbaglierò, è quella di un campionato, non so dirti se con sette sorelle, ma con una serie di squadre che sono più vicine rispetto al passato. Secondo me abbiamo un campionato, poi magari lo vincerà la Juve, che l'ha vinti, uh-huh, vinti sempre negli ultimi anni, però mi sembra che l'equilibrio sia il punto di partenza di questa stagione, senza esagerare con i processi alla Juve, che ieri comunque, adesso ne parleremo, insomma, è uscita in 10 contro 11 con la capacità di recuperare il pari, però insomma mi sembra che le conferme siano arrivate dall'Atalanta, dalla Lazio e anche dall'Inter, che secondo me ha un potenziale enorme davanti a sé. Equilibrio, sì, equilibrio è una parola meravigliosa, così come meraviglioso a ritrovare Maurizio Crosetti, che mi è mancato da morire. Ciao Maurizio. Eccoci, buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno, cari. Senti, guardando la Juventus di ieri, poi parliamo dei fantasmi col 9 di cui scrivi su Repubblica, però guardando nel complesso Juventus di ieri mi è sembrata, la parola che mi viene in mente non è equilibrio ma casino. Lavoro in corso va bene, ma siamo alle ruspe nel viale. Sì, si ha un po' l'impressione che tutti vogliano mettere tutto subito, no? Compreso Pirlo, forse più degli altri, no? Dice ho le idee, so cosa fare, ho i giocatori, li butto dentro, ma poi li cambio, però poi la aggiustiamo. Sì, casino è una parola adatta a raccontare quello che certamente è un cantiere con qualche pensionato che lo guarda da fuori, immagino, che ne so, Sarri con le mani dietro la schiena, no? che guarda passare la ruspa di Pirlo, anche se scherzavo un mio amico ieri sera, diceva: beh, siamo passati dallo schema Allegri che era non benissimo ma ci pensa Ronaldo, allo schema Sarri che era non benissimo ma ci pensa Ronaldo, e finalmente a Pirlo il cui schema ieri sera è stato non benissimo ma ci pensa Ronaldo. Quindi cambiare tutto per non cambiare nulla, però in effetti certo, ovviamente no, diciamolo, perché sai, bisogna stare un po' attenti al telefono in questi tempi, bisogna stare molto attenti quando si parla al telefono, sì, perché ci potrebbe essere anche intercettati ora in questa telefonata, siamo io, te, Pierre, e forse, però se ci fosse tipo, non so, il maresciallo Pinco Pallo, io vorrei salutarlo. Che Pinco Pallo, Sarri? Maresciallo, buongiorno. Anche colonnello Sarri, pronto, salutiamo. Pronto, Grossetti, pronto. Eccolo lì, il colonnello Sarri, lo conosco. Lo conosci? No, sì. Comunque sono d'accordo sull'analisi sulla Juve, secondo me è giusta. L'aspetto più interessante della partita della Juve è quella frase che abbiamo ascoltato prima di Cristiano Ronaldo, che con una certa, con un certo vigore mi pare abbia confermato che la squadra adesso è migliorata e che si lavora molto di più col sorriso. Questa è una conferma. Poi che questa qui, che questo significhi vincere, secondo me non è automatico, anche perché poi insomma non esiste un solo tipo di leadership, non è che se le squadre che sorridono vincono e quelle che sono arrabbiate perdono. Sicuramente un certo tipo di clima può aiutare, sicuramente con Pirlo secondo me ci può essere il problema opposto rispetto a quello che c'era con Sarri. Con Sarri, da quello che abbiamo capito, ci sono stati momenti di antagonismo e probabilmente di feeling non del tutto esploso in positivo. Con Pirlo c'è il punto di partenza opposto, c'è un giocatore che ha fra i suoi giocatori degli ex compagni e degli amici, una leggenda del calcio, amata, rispettata da tutti. Poi però questa cosa qui non c'è il rischio quasi del troppo feeling, no? se vogliamo ragionare da questo punto di vista. La verità è che secondo me la Juve da qualche anno non è più la squadra, è la squadra più forte d'Italia, però non è più dominante come poteva essere qualche anno fa, dove proprio non c'era neanche da discutere per il campionato. Deve fare delle operazioni, le farà secondo me da qui al 5 ottobre, non si può chiedere a Pirlo di arrivare in 10 giorni, 15 giorni e vedere una squadra già completamente dominatrice. In realtà Pirlo è arrivato 10 anni fa e non è mai più uscito praticamente da questa squadra, perché no, ha cominciato questo ciclo da giocatore ed è ancora il ciclo stesso in cui era giocatore, perché... Certo, però voglio dirti, comunque insomma l'esperienza della vita serve anche a qualcosa, io l'ho detto mille volte in queste settimane dopo l'annuncio dell'arrivo di Pirlo, cioè comunque è un azzardo, così come Sarri era un azzardo dal punto di vista della filosofia e dell'empatia, Pirlo è un azzardo perché comunque è un allenatore che ha fatto ad oggi ha due panchine in carriera, una, certo, vittoria con la Samp e un pareggio con la Roma. Ma ha ragione Maurizio, tutte le caratteristiche per sembrare e per poter essere, vedendolo da fuori, un allenatore importante, perché ha l'intelligenza, ha l'allure, il carisma, è rispettato dai giocatori, da tutti, anche dagli avversari. È stato sicuramente molto intelligente in campo e questa cosa, così occhio e croce, potrebbe aiutare, però da qui a colmare il gap di esperienza di altri allenatori ce ne vuole, no? No, mi sembra che sia corretto quello che ha detto Maurizio, non so, reinterpreto, l'idea di Pirlo è molto ancelottiana, quindi se vogliamo anche molto alta e un filino presuntuosa, no? Giocano quelli forti dove poco importa, perché quando vedo Cuadrado a sinistra, quando vedo Rabiot in quel ruolo che a me sembra incomprensibile, quello che ha giocato, in cui ha giocato le ultime due partite, praticamente grosso modo alla Pirlo comunque. A me sembra abbastanza incomprensibile proprio che Rabiot giochi nel cuore del gioco della Juventus, scusate il bisticcio, ma al di là di dove lo metti, è uno di quei giocatori che nelle ultime giostre di mercato juventino sono arrivati anche per ragioni così di plusvalenze, di vantaggi economici, anche se poi li strapagano, ma non pagano cartelline, strapagano loro, ma non è con Rabiot che tu fai il salto di qua che vinci la Champions, non è con Ramsey che vinci la Champions, non è con Danilo che vinci la Champions, cioè certo la Juve a Ronaldo, certo a Kulusevski questo è un colpo eccezionale, questo è il più forte giovane io credo forse d'Europa, questo è un giocatore che ci farà vedere cose che noi umani non immaginiamo. Questo qui diventa... il fatto Maurizio che sia arrivato non durante l'estate ma prima, no, certo, no, ma questo... ha tolto mediaticamente un po', ma questo è un colpo incredibile. No, questo è un giocatore incredibilmente forte, però non è che sono tutti stati così, no, gli acquisti arrivi. Per cui comunque c'è anche una questione proprio di qualità media che va messa insieme da un uomo che ha il suo secondo giorno di lavoro, cioè piaccia o no, io al secondo giorno di lavoro lavoravo tutto sport, me lo ricordo, era l'82, ecco, settembre 82, mi hanno dato una pagina con tabelle, numeri, ho sbagliato una moltiplicazione che è poi andata a ricadere su tutti i conti della pagina, era una pagina di statistiche, era tutta sbagliata, però era il mio secondo giorno di lavoro e non sono Pirlo, non ero una leggenda del calcio, sarei poi diventato non una leggenda del giornalismo. Mica, non sono mica Pirlo, non sono mica Pirlo. Quindi a me sembra che insomma questa scelta sia una scelta da seguire con grande attenzione. Qualcuno ha detto che i giocatori guardano a Pirlo come nel Real hanno guardato a Zidane, sì, all'inizio, anche lui senza grande esperienza, però insomma il carisma, il peso, la sapienza della materia trattata era sufficiente, e puoi essere Zidane e puoi essere Stramaccioni, cioè puoi essere Guardiola e puoi essere, lo dico col massimo dell'affetto perché è un mio carissimo amico Ciro Ferrara, che però venne di fatto pressoché bruciato da una Ferrari sotto il sedere, no? Perché poi alla fine al neopatentato normalmente non dai la Ferrari, anche se di questi tempi forse sì, forse una Ferrari visto come va piano è come dare la macchinina a pedali della Kia. Non funziona più tanto. Ci ho appena finito di pranzare con Ciro. No, ma è vero, lui venne sicuramente bruciato perché si trova probabilmente in una situazione in quel momento più grande di lui, no? E quindi conta molto il momento. Ed è chiaro che per Pirlo è anche un po' un rischio per cominciare così, però è un rischio talmente bello, insomma, un'opportunità talmente grande che capisco perfettamente che lui abbia accettato. La Juve deve, secondo me, non è la squadra perfetta in questo momento, è una squadra molto forte, con alcuni giocatori di livello assolutamente superiore, con una mentalità e una solidità anche societaria, un'abitudine a vincere che potrebbe ancora una volta fare la differenza, ma non è una squadra perfetta e non si può chiedere ad un allenatore che è arrivato da due partite di poter risolvere subito tutto. Poi comunque sì, insomma, ieri sì, non è stata una bella Juve sicuramente, ma insomma io parto dal presupposto che la Roma non sia così inguagliata come qualcuno dice. No, no, tutt'altro. Ieri credo che l'abbia dimostrato, no? È una squadra che deve trovare un po' di equilibrio con se stesso e con se stessa, che deve probabilmente sistemare un paio di ruoli, un vice Dzeko sicuramente, magari un altro difensore per migliorarsi sugli esterni, insomma, mi pare che ci sono tre giocatori che però non convincono del tutto, parlo ovviamente dell'out destra, e poi però è una squadra che comunque il talento ce l'ha, deve capire dove vuole andare, ha bisogno, al di là dei giocatori, un direttore sportivo, è in discussione allenatore, mi sembra tutto materia molto friabile lì, più che non è che vai a Roma e te la porti da casa, no, assolutamente, anzi la Juve è andata bene da ieri, secondo me. Punto guadagnato. Andrea da Torino, Pirlo naturalmente è in linea, buongiorno Andrea Pirlo. Magari no. Comunque avessi anche un decimo dello stipendio che ha adesso lui, vabbè, comunque. Beh, ma per essere un allenatore di Serie A guadagna pochissimo, per essere un allenatore della Juventus. Come basterebbe quel decimo? Ah, vabbè, okay. Anche a me comunque, nel dubbio. Sì. Allora, io ho contato tre errori abbastanza fondamentali di Pirlo ieri, ma proprio semplici. Siccome Morata dall'inizio, siccome non ci stava un giocatore che è arrivato dopo 3-4 giorni, Betancourt che lo tiene in panchina mi è un punto interrogativo, non riesco a capire perché. Sì. L'ammonizione che ha avuto Rabiot, io pensavo che nel secondo tempo lo togliesse perché aveva già rischiato un po' nel primo tempo, e io l'ho detto a mio figlio, ho detto ma perché non lo toglie? Poi primo intervento a centrocampo, secondo me con 5 sostituzioni, con giocatori che c'avevi dentro, Betancourt lo mette a posto di Rabiot, questa era troppo rischiosa, perché poi Rabiot è grande e insomma quelle che lo becchi subito, che fa è grosso, lo becchi subito, non riesce neanche a nascondere. No, ma a proposito di Morata ad esempio, né Dzeko né Morata, duello tra i fantasmi alla prova del 9, scrive oggi Maurizio Corsetti, almeno il titolo del suo pezzo, poi non è lui titolista probabilmente, con una differenza però, no, che credo che Maurizio possa confermare, cioè che Dzeko sicuramente ha avuto il demerito che si è divorato due occasioni importantissime, però la presenza di Dzeko ieri si è rivista. Ma come la Roma, ma di ieri rispetto a quella di Verona, una squadra molto più pesante davanti, molto più rilevante dal punto di vista offensivo rispetto a quella di una settimana prima. Quindi se Dzeko la sua partita, io sono d'accordo con Fonseca, non credo che siano parole di circostanza, ma è chiaro che quando un attaccante sbaglia dei gol è sempre nell'occhio del ciclone perché li sbaglia, però devi vedere anche il contributo che ma stiamo parlando di un fuori classe, vuol dire che ci è arrivato, cioè la vita dell'attaccante si basa su due aspetti, proprio semplificando tutto: arrivare ad avere delle occasioni e sbatterla dentro, per cui non è una grande consolazione, però diciamo che la prima metà del lavoro l'ha fatta Dzeko, che ieri ha fatto reparto, mi pare. Ma stiamo parlando di un giocatore di un altro livello, rispetto anche, con tutto rispetto, allo stesso Morata, no Maurizio, probabilmente era stanco da aver dovuto disfare per il camion dei traslochi, mentre Morata secondo me l'ha proprio fatto lui il trasloco. Lui non è che era stanco perché doveva dare le dritte al traslocatore, lui, e io credo sia il traslocatore. No, Dzeko ha giocato male in area, ma bene fuori, insomma, ha sbagliato quelle due occasioni, ha fatto reparto, ha ragione Pier. E poi comunque non stiamo parlando per niente di Pedro, c'entra tanto con Morata e con Dzeko, ma guardate che la Roma ha preso ovviamente un gran giocatore, non più giovanissimo, ma Mkhitaryan, Pedro e Dzeko, se trovano la quadra, guardate che non ci sono tanti terzetti migliori di questi. No, ma sono d'accordo. D'altra sono parte, d'accordissimo, e sempre e meglio di... Non dimentichiamoci che manca Zaniolo, che comunque era... quindi voglio dire, poi sai, su fronte Roma c'è sempre... come tutti gli ambienti molto appassionati, molto caldi, in cui si parla della squadra ogni santo giorno, quindi con un livello di pressione così grande qualche volta manca l'equilibrio, però io sono convinto che sicuramente la Roma non è una favorita per i primi quattro posti, sono d'accordo con il Lodo Trevisani, ma è una squadra che, ripeto, con un paio di situazioni sistemate, con un pochino più di chiarezza e un po' di presenza da parte della nuova società, secondo me può fare una buona stagione. Sì, comunque debutto di Morata sempre meglio di quello di Higuain nell'Inter Miami, non so se l'avete visto, rigore scalciato alle stelle e mezza scazzottata da Salun con gli avversari che lo ridevano. Queste però sono storie dell'altro mondo. Con Maurizio Corsetti volevo invece toccare un altro punto ed è l'ultimo. C'è chi comincia a considerare i cinque cambi una picconata alla democrazia calcistica, no? Un duro colpo al proletariato calcistico. Sei d'accordo? Io sì, al di là dei termini che si possono scegliere, credo che fosse questa misura straordinaria di cinque cambi giusta, utile, per non dire necessaria, a luglio, quando giocando ogni due o tre giorni davvero c'era bisogno di dare un po' di tregua e un po' di respiro a questi ragazzi. E adesso molto meno, adesso davvero sembra una cosa fatta apposta per chi ha due squadre in panchina o una squadra e mezza. Cioè già le grandi sono grandi di loro, già possono avere due squadre, se me ne fai giocare metà, cioè 5 su 11 è mezza squadra. Sì. È come se una squadra potesse, ogni domenica una grande squadra potesse andare in campo con una squadra e mezza, di fatto. Sì. E gli altri che fanno? Non mi sembra davvero giusto e spero, non so adesso... le regole non si possono cambiare, cambiate in corso, questa è la regola delle regole, però è stato secondo me sbagliatissimo lasciarla. No, d'accordo, l'ho detto due o tre settimane fa quando c'era stata la questione, è chiaro che adesso si sa che è così, per cui voglio dire, adesso appunto non si possono cambiare le regole, e secondo me se qualcuno ha ragionato in questa direzione, per esempio sull'idea di avere una rosa un pochino più grande, partendo dal presupposto ovviamente di potersela permettere, certo, ha fatto una scelta saggia e giusta. Certo, anche perché 20 giorni fa ti dicevo che mi piaceva di più il 3, mi piaceva di più i tre cambi, però la regola no, è chiaro, cambia tanto, ti giri verso la panchina, ti giri verso la panchina, hai un sacco di d'oro laggiù. Dimmi un'ultima roba, Mauri, pubblico negli stadi, ieri abbiamo visto la corsa di Formula 1 a Sochi, c'erano mi pare 31.000 spettatori, il mondiale di ciclismo l'avrei visto anche tu a Imola, a casa nostra, e sul tracciato c'era un sacco di gente, poi alla sera arrivi a Juventus-Roma, ovviamente i soliti 1.000. Sì, però adesso davvero io oscillo nei mesi, cambio opinione perché voglio sperare sempre che questi segnali di vita che ritorna siano... importanti dal punto di vista anche mentale. Siamo tutti andati un po' fuori di zucca con questo Covid, però ragazzi, sentiamo le ultime notizie, cioè oggi ci sono contagi a tutti i livelli, 500 scuole, più di 500 scuole in Italia hanno già avuto più di un positivo, anche se non se ne parla abbastanza. Pullman di gente in gita tornano, guarda caso, sono contati due pullman ad Asti, qui vicino, sono tornati e li hanno messi in quarantena. Mi dispiace dirlo, però con la paura gigantesca che abbiamo di una seconda ondata, che di fatto c'è già, riparlare di tanta gente insieme, lo dico con l'amor del cuore, perché il calcio senza pubblico ci stiamo abituando a una cosa che non c'è, stiamo abituando a una cosa brutta, a un compromesso, no? A un matrimonio senza amore ci stiamo abituando, sì. E non va bene questo, però non possiamo nemmeno riportare su adesso, prima di sapere come saranno le prossime 4-5 settimane. Io temo. Ciao Mauri, grazie. Ciao Maurizio, ti abbraccio. Vai Pier. Sono arrivati anche nei commenti su Twitter, proprio che riguardano anche questa trasmissione. Io ci tengo a chiarire per l'ennesima volta quello che penso. Cioè, per me decide la scienza, decide il comitato tecnico scientifico, e se si deve giocare 2 mesi, 5 mesi, 1 anno, 3 anni senza pubblico, perché questa cosa è utile per la salute pubblica, io sono il primo firmatario di questa cosa, col dolore del cuore, ma assolutamente, cioè per me non c'è discussione su questo. Quello che secondo me è importante è, da un lato, avere comunque un tentativo, avere dentro di sé, diciamo, l'ottimismo di poter immaginare questa cosa qui, se la scienza ci dirà che la possiamo fare, e dall'altra una sorta di rispetto, perché sembra sempre che il calcio sia un mondo per alcuni, sembra veramente. Io ragazzi, ho visto l'altra sera in un ristorante, cioè, ho molta più paura in certi ristoranti che in uno stadio da 80.000 posti dove magari entrano 12.000 persone. Chiaro, per non parlare di metropolitane, pullman e mezzi, no? Pubblici all'ora, quindi, di punta. Cioè, su questo io credo che ci vorrebbe un pochino più di onestà intellettuale, capito? Invece sembra sempre da parte di alcuni, ovviamente, che il calcio, con tutti i problemi che abbiamo, questi pensano ad aprire gli stadi. Questo a me dà fastidio come ragionamento. Poi ribadisco, io sono un frequentatore di stadio, sono un fortunato che ci sta andando in questo momento allo stadio, anche se chiaramente senza pubblico mi piace di meno. Però voglio dire, quindi proprio dal mio punto di vista personale, facendo un discorso di questo tipo, proprio mi cambia zero. Penso che compatibilmente all'evolversi, speriamo, migliorativo della situazione, ragionare su degli scenari così non sia sbagliato, sia sano, come è stato fatto per i bar, per i ristoranti e per altre attività umane. L'altro giorno Gandini ci raccontava e ci faceva capire che per il basket questo aspetto è ancora più importante, ancora più urgente, è vitale, Pierluigi, no? È vitale, quindi... anche perché se no muoiono di fame, non possono svolgere la loro attività in assenza di pubblico, perché se no non ce la fanno banalmente a sopravvivere, a pagare i giocatori, a fare attività sportiva. È importante che non... Insomma, quello che manca in questo momento, a me sembra, è un po' di coerenza nel definire delle linee accettabili per tutti, nel rispetto ovviamente alla principale esigenza, quella della sicurezza. Massimo Lecco, buongiorno. Sì, buona giornata a tutti. Volevo parlare dell'inizio di Antonio Conte, che ha già iniziato a farsi dannare. Premesso per i cultori della difesa 3, che non ha mai vinto nessuno con la difesa 3, a parte la Juve in Italia, dove non arriva in Europa, nel mondo si gioca a 4. Ma tu mi entri in campo con la Fiorentina, che poteva essere la Lazio, il Benevento, quello che vuoi, con D'Ambrosio, il povero Bastoni, l'unico centrale, e Colaro, ma minimo prendi 3 gol così, ma minimo. Sì. Quello che mi chiedo io, un allenatore che prende 10 milioni, che ha i ragazzi sotto l'occhio tutti i giorni, fa una scelta del genere, io butto nella testa. Sì, vuoi che tra comunque tra contingenze, infortuni e squalifiche, mi sembra che la conta fosse ridotta grosso modo a quelli lì. Se poi mi dice che non è praticabile questa soluzione nemmeno nel medio termine, Pier, non possiamo che essere d'accordo, perché è chiaro che quella non può essere la difesa dell'Inter. Squalificato. Sappiamo il discorso. Insomma, c'è una situazione complicata e si può discutere sulla situazione complicata. Io prima di dar via Skriniar ci penserei mille volte, però è chiaro che per come gioca Conte, Skriniar in questo momento è un po' fuori dai radar. D'accordissimo su Bastoni, è chiaro. È che andato via anche Godin. Ecco, sì, però insomma, andato via Godin anche perché poi alla fine in qualcosa devi rientrare. Io, guarda, penso che l'Inter abbia una super squadra, una super rosa, e l'altro giorno sono d'accordo con l'ascoltatore, cioè sicuramente l'altro giorno i difensori ce n'erano pochi, ce n'era uno forse solo che è Bastoni, certo. E poi per il resto no, cioè nonostante alla fine l'Inter ha vinto la partita in qualche modo, quindi bisogna capire, io ho la sensazione che abbia dei grandi margini di crescita questa squadra. L'altro giorno poteva sicuramente inciampare perché la Fiorentina ha fatto una partita fantastica e secondo me insomma con un po' di concretezza in più poteva portarla a casa. No, ma vale il discorso di qui sopra, cioè adesso Conte se si gira verso la panchina e vede quelli che vede, Vidal, Sensi, Sanchez, possiamo fare l'elenco di quelli che sono entrati, certamente una squadra estremamente profonda. Nella contingenza i difensori, quelli che potevano giocare in quei ruoli dietro per le ragioni spiegate a Peruigi erano quelli ed erano contati, probabilmente serve intervenire anche lì, vediamo che succede con Skriniar. D'altra parte che ieri sera abbiamo visto la Juventus, che è la Juventus, giocare per alcuni tratti un Cuadrado a sinistra e non è esattamente il suo ruolo, perché anche la Juve lì ha qualche problema di organico e sembra surreale. Borsa, torniamo. Ve l'avevo detto anche la settimana scorsa che la Juventus deve comprare Icardi con Zeko e Giroud, e ieri si è visto che Zeko vuole venire a giocare nella Juve, perché Zeko ieri ha sbagliato apposta quei gol, perché non voleva fare male alla squadra dove va a giocare. Morata non vale niente. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Tutti convocati. Visto la crisi di pubblico, degli introiti che ha il mondo del calcio, potrebbero anche pensare di ridurre gli stipendi ai giocatori e i cartellini, i costi dei cartellini. WhatsApp 349-238-6666. Pierluigi Pardo mi è testimone, giuro che da un po' che avevo voglia di salutare Claudio Onofri, non l'ho fatto oggi dopo che il Genoa ha preso 6 fischi a Napoli. Sì. Vero Piero? assolutamente. Ciao Claudio. Ciao a tutte e due. Non è una buona giornata per tutta la Liguria, se vogliamo, da un punto di vista calcistico, perché insomma. E direi di sì, 0 punti in 3. Esatto. No, non benissimo, mi sa che per la Liguria sarà un anno ancora lungo e duro, Ma sì, adesso vediamo un po' lo sviluppo, diciamo così, del rendimento, soprattutto per quanto riguarda il Genoa, no? Perché aveva fatto veramente una buona partita col Crotone, al di là del valore adesso del Crotone, perché però si era visto, sorprendentemente devo dire, che con questo 3-5-2 che Maran ha adottato pochissime volte in carriera, si era raggiunta subito un'organizzazione di gioco importante, cosa che invece, a parte il primo tempo di ieri, onestamente nel secondo tempo c'è stato veramente un crollo, non so quanto tattico, psicologico, emozionale, questo non lo saprei dire, ma però ha portato a una sconfitta che in un ambiente già caldo di suo in questo momento a Genova non può che condizionare già dalla prossima partita col Toro. Però, tutta la rosa e lo stesso Maran. Toro che non sta benissimo, d'altra parte l'alba di questa partita con i casi di Perin, di Schöne contagiati, la partita rinviata, insomma, è stato tutto un casino, però guardala dall'altra parte, come Pierluigi Pardo mi insegna, il Napoli in questo momento è una delle realtà più interessanti e intriganti del campionato, perché Gattuso può anche fare modesto, ma se Zielinski non segna dopo un pugno di minuti, mettevo un altro centrocampista e facevamo anche catenaccione, ma perché questo è Gattuso, no, Pierluigi? In realtà questo Napoli a me intriga da morire, non vedo l'ora di vederlo contro la Juve. Sì, perché poi alla fine ha avuto ad oggi una continuità, ha conservato il gruppo base, ha aggiunto soluzioni molto interessanti sicuramente, ma anche Lozano di quest'anno mi sembra un giocatore completamente diverso rispetto a quello dell'anno scorso, e e quindi molto bene. Poi è chiaro che insomma la stagione è lunga, i test aumenteranno di difficoltà, arriverà l'Europa, che comunque sarà dal punto di vista delle energie un aspetto importante, poi c'è questa rottura di scatole di Insigne, questo infortunio che sicuramente non semplifica, quindi però ecco, sicuramente bene, molto bene, tra l'altro curiosamente bene anche Ancelotti, insomma Ancelotti e Gattuso in questo momento sono lontani dal punto di vista geografico, ma entrambi stanno interpretando bene questo inizio di stagione. No, il Napoli è molto pericoloso, sono d'accordo con te. C'è molto ancelottismo sia nel Napoli che nei tentativi di Pirlo alla Juventus, lo dicevo prima a proposito della Juve, no, Pierluigi, cioè il Napoli che gioca alla fine con Fabian Ruiz e Zielinski e poi Lozano, Insigne, Mertens e Osimhen, cioè più di così cosa vuoi fare? Sì, no, ma assolutamente. Per quanto riguarda il Genoa, secondo me la capacità è stata una brutta sconfitta, però tutto sommato perdere a Napoli ci può stare, anzi era il risultato più probabile. La partita era figlia di una serie di problemi, a cui queste positività che sicuramente l'hanno condizionata, con la squadra è partita il giorno stesso, ma voglio dire, adesso bisogna essere bravi secondo me nel non farsi troppo condizionare, anche perché già era partito bene, e quindi adesso la partita contro il Torino è una partita già chiave, quindi insomma la capacità di resettare i problemi e le situazioni negative è fondamentale. Sì, quanto invece alle altre, Claudio, mi sembra che Atalanta, Lazio e anche il Milan abbiano semplicemente ricominciato il lavoro che avevano interrotto solo qualche giorno prima. L'Inter e Napoli sono pure meglio, partono da quella base, ma sono pure meglio, sì, perché sono più profonde. Dell'Atalanta onestamente non lo so se sono meglio, perché io sono andato a Torino, dice, a vedere la partita, è stato praticamente un allenamento impegnativo, ma un allenamento grazie anche a, diciamo così, a un modo di pensare calcio di Marco Giampaolo, allenatore e persona che stimo moltissimo, di non riuscire a leggere, diciamo così, che le situazioni non stanno andando bene e eventualmente cercare anche di cambiare quel modulo che a lui è di cui lui è particolarmente affezionato, il 4-3-1-2, perché c'era una superiorità numerica sulle fasce a destra quando andavano a crossare e a sinistra quando andavano a ricevere il cross, che era imbarazzante, perché hanno gli uomini di Gasperini hanno sbagliato di diverse occasioni proprio in questo modo, per cui l'Atalanta secondo me è chiaro che adesso il recupero, parlavo proprio stamattina con Giampiero Gasperini, il quale mi dice che insomma si è allenato, Ilicic sta ricominciando a riprendere una sua, diciamo, caratura, una sua forma fisica eccetera, però ovviamente ci vorrà ancora un po' di tempo. È ovvio che appunto se Ilicic si ritorna a essere quello che sappiamo tutti com'è da un punto di vista tecnico, allora l'Atalanta la metto su un piano addirittura più alto delle squadre che hai citato, anche se Milan e Lazio sicuramente stanno dando dei segnali importanti, e a livello di mercato il Milan, e a livello di consistenza ancora confermata per quanto riguarda un allenatore che ormai è da tanti anni che ha in mano questo prodotto. Sì. D'altra parte, Pierluigi, Ilicic certamente è un punto, Miranchuk non l'abbiamo ancora visto, lo vedremo tra un po', ma è un eccellente giocatore. Ma secondo te Muriel Zapata insieme soluzione estemporanea o di lungo corso? Perché anche avere un Muriel che ti entra al 70° e ti risolve la partita non è una brutta idea. Sì, ma io credo che il vero segreto di Muriel Zapata, anche se poi sappiamo che quando in situazioni normali Zapata era il titolare e Muriel era la riserva nella parte finale della stagione, mi pare che Muriel abbia giocato titolare soltanto a Cagliari nell'ultimo periodo post-lockdown. Sì. Secondo me la forza che ha a disposizione Gasperini è proprio il fatto di vuotarli e non di schierarli insieme. È chiaro che può essere una soluzione ovviamente in corso d'opera per partite dove ti serve del peso offensivo, per tratti di partita in cui ti serve un maggiore peso davanti, allora li puoi anche mettere insieme. Ma io credo che uno dei motivi del grande successo offensivo dell'Atalanta è proprio il fatto che ha potuto gestire le rotazioni tra questi due attaccanti in modo da averli sempre in grande efficienza fisica, insomma. E poi la forza dell'Atalanta è l'Atalanta. È una visione, sì, scusa al momento la parissiano, ma è una visione, cioè va sotto a Torino dopo 10 minuti, prima partita della stagione, quindi potrebbe anche avere, no, un comprensibile momento di Invece se ne impippa del tabellone e ne fa 4 minuti, dopo un quarto d'ora sta avanti 2-1. Cioè, e l'altro giorno tra l'altro ha mostrato anche una capacità secondo me di addormentare la partita nel secondo tempo, di gestire la partita, che è stato forse l'ultimo approdo dell'Atalanta della passata stagione. È stato un po' all'inizio non era così, ricordiamo la partita all'Olimpico contro la Lazio. L'Atalanta è una squadra nella prima metà della stagione che attaccava in maniera incredibile, ma che poi non riusciva a gestire. Secondo me è molto migliorata da questo punto di vista, e col Torino l'altro giorno lo si è notato. Sì, anche, anche se io penso che il calcio, per come sta diventando, per il discorso di cui sopra, no? 5 cambi, quindi è importante avere grande qualità in panchina. Ma l'Atalanta ce l'ha, eh? Appunto, l'Atalanta ce l'ha, e anzi ne avrà ancora di più con il recupero di Ilicic, con l'arrivo di Miranchuk, poi c'è Lammers che è un buon giocatore. Secondo me l'Atalanta è pure meglio dell'anno passato. Tra l'altro, se posso intervenire, proprio Gasperini mi diceva appunto di avere questo giocatore in più, diciamo, tra virgolette, che è questo Lammers, che gli sta piacendo veramente molto in allenamento. Di Miranchuk quindi... ha detto qualcosa? Sì, che m'ha detto bene, ci abbiamo indovinato anche questa volta, e adesso vedremo, appunto, sarà pronto forse per la prossima gara, adesso non so, subito con la Lazio o subito dopo, però ecco, la capacità, l'alchimia che c'è in quel prodotto dell'Atalanta con Sartori, che sa scegliere giocatori che magari non sono così conosciuti, o perlomeno insomma non sono in gran spolvero in quel momento, e che poi vengono messi in mano a uno che per me è uno dei migliori allenatori che c'è in Europa e nel mondo, sì, e che veramente traduce, diciamo, le sue idee in campo in maniera perfetta, cercando proprio sempre di... Se ne sono accorti. È vero quello che diceva Pierluigi del fatto che magari anche c'è questa tendenza ultima probabilmente anche a mettere la partita su un piede un po' più calmo, se vogliamo, quando sei in vantaggio e tutto, però l'intenzione che si è vista, ero appunto lì allo stadio, è sempre quella comunque di continuare a fare quello che hanno imparato a fare in allenamento. E allora questo vanno sotto e non fanno un plissé. Grazie ragazzi, grazie Claudio Onofri. Pier, ti saluto e avverto gli amici che devono ancora guardare gara 6 di... finale di conference NBA, che stiamo per dire delle cose subito dopo il traffico. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Intimissimi uomo, boxer a 7,90 euro, nei negozi e online. Vi presento. Celtics still fighting Hero, pass inside, Bam Adebayo with the exclamation point. With Miami has been a perfect fit. We'll head to his first NBA Finals. Allora, come dice il mio fraterno amico Michele Dallai, quando ci sono i playoff NBA gli spoiler non esistono, li si guarda in diretta. Infatti sia io che lui abbiamo smesso quantomeno di svegliarci arrabbiati la mattina, dato la comune fede per i Celtics. Lakers, Los Angeles Lakers, Miami Heat, sarà la finale NBA. Ciao Simone Sandri. Buon pomeriggio Carlo. Stai per tornare nella bolla di Orlando per vedere e raccontarci di conseguenza questa finale, che ha mille risvolti, mille intrecci, mille intrighi, no? LeBron che ha vinto i suoi primi titoli a Miami, a Pat Riley che è il presidente delle operazioni cestistiche di Miami Heat contro LeBron James nell'anno di Kobe Bryant. Insomma, pesca tu dal mazzo per dare una pennellata a questa finale. È una bella sfida questa, perché ci sono veramente tantissimi temi, ovviamente partendo da Kobe Bryant, arrivare a LeBron che gioca contro la sua ex squadra. Secondo me almeno in questo momento, dopo aver visto la partita di ieri e dopo aver veramente capito che cosa ha significato costruire questa squadra con scelte al draft basse con trade che sono passate così in cavalleria, con allenatori super sottovalutati come Spoelstra, almeno per quanto mi riguarda. Credo che sia la finale di Pat Riley, che credo che chiuda una sorta di percorso di Pat Riley, che è iniziato da giocatore dei Lakers con una vittoria al titolo, da allenatore dei Lakers con la vittoria dei titoli, da allenatore di Miami con la vittoria di titoli e da dirigente di Miami con vittoria di titoli. Secondo me questa squadra che è riuscito a creare, partita dalla firma di Butler l'estate scorsa, passata dal draft pazzesco dove ha scelto un giocatore incredibile come Harrow alla 13ª scelta, o l'anno 2 anni prima Adebayo alla 14ª, puntellata con questa trade che è passata assolutamente inosservata di Iguodala e Crowder, che sono passati agli Heat a febbraio, ha veramente creato un gruppo incredibile dove ci sono giocatori di alto livello come Adebayo e Butler, ma dove tutti stanno dando il contributo e dove tutti sono riusciti a capire che cosa vuol dire la cultura di Miami, perché è questa parola che si spende tantissimo qua negli Stati Uniti, la culture degli Heat, e secondo me questo risultato non può far altro che confermare veramente questa cosa. Sì, dall'altra parte c'è nell'anno che si è aperto con la tragedia di Kobe Bryant, ci sono i Lakers che sembrano però un po' la squadra del destino, la squadra in missione. Decima finale per LeBron James, decima finale, non ho idea di quanti come lui nella storia, forse nessuno, 10 finali da giocatore. So che ci sono soltanto nell'NBA 3 squadre che hanno fatto più finali quattro squadre che hanno fatto più finali di lui, cioè di un singolo giocatore, che è LeBron. Sì, ma infatti considerato che c'è ancora gente che ha il coraggio di criticare LeBron, i numeri veramente sono pazzeschi, il modo con cui lui ha condotto questa squadra, hai detto assolutamente bene, nell'anno ovviamente della scomparsa di Kobe Bryant, ma anche nella bubble, il modo con cui ha voluto dare un'impronta a questa squadra, a trovare una chimica straordinaria, recuperare giocatori per esempio come Rondo e come Dwight Howard, incredibilmente Dwight Howard che ha dato un contributo, un giocatore che si pensava finito ormai da 4-5 anni, che ha dato comunque un contributo importante soprattutto nella serie contro Jokic. Veramente LeBron ha fatto di tutto, ha fatto l'assistente general manager, l'assistente allenatore, il leader in campo, il miglior giocatore, il giocatore che ha dato spazio anche a Anthony Davis quando Anthony Davis aveva bisogno di opportunità offensive. Veramente quest'anno ha fatto qualcosa di assolutamente straordinario per l'ennesima volta. È anche vero che lui con la nuova squadra la prima finale di solito la perde, poi vince quelle dopo, però anche questa è pura statistica. Ti chiedo ancora questa non la perde, pennellata. L'America come vede questa finale? Come si è svegliata l'America con questa finale? Sappiamo tutto quello che c'è intorno a questa bolla dell'NBA, le polemiche eccetera eccetera, anche dei dati televisivi come Trump ha sottolineato più volte in calo degli Stati Uniti, dell'NBA negli Stati Uniti. Sì, i dati televisivi non sono straordinari e è un po' sorprendente questa cosa per una serie di motivi, principalmente perché lo spettacolo regalato dai giocatori in campo è stato veramente alto, per cui è abbastanza sorprendente che i dati siano così bassi. Ci sono una serie di motivi, ognuno può farsi le sue opinioni sul motivo per il quale la audience si è abbassata. Ed è strano perché avendo LeBron James è ovviamente il giocatore che attrae comunque la audience più di chiunque altro. Sicuramente sono delle finali affascinanti da tanti punti di vista, perché come hai detto tu ci sono tantissimi temi. La cosa credo importante da sottolineare è che la conclusione del progetto incredibile di Adam Silver, che ha creato questa bubble, adesso la diamo un po' per scontata, questa bubble da $175 milioni che verrà studiata negli anni a venire come qualcosa di storico, e si conclude nel modo migliore con LeBron in finale. Credo che sia il massimo che poteva ambire certo. Adam Silver. E detto questo, Babola, arrivederci a mai più, perché contiamo tutti su una prossima stagione sportiva e nella vita in cui non ci siano più di questi problemi. Questa è una banalità con cui chiudo. Grazie Simone Sandri, ci sentiamo presto. Gianmarco Ferronato in regia, Lorenzo Nespo in redazione, ciao, a domani. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy! Saluti! Credimi, incassare subito fino al 99% delle tue fatture senza vincoli e burocrazia si può, anche prosoluto e senza notifica. Vai subito su credimi.com. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com. Ora è ora di avere un sito internet.